La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, il magazine settimanale di cinema di Radio 24. Franco D'Assisi in studio in una puntata speciale, perché se da una parte segna il riavvio della stagione cinematografica con un numero di film e un livello di popolarità presunta di questi film importante, dall'altra segna anche la prima di due puntate fortemente influenzate dalla Mostra del Cinema di Venezia numero 66, che è in corso di svolgimento al Lido già da 3-4 giorni e che poi impegnerà tutta la prossima settimana. Insomma, puntata spaccata a metà in un certo senso: prima le novità cinematografiche non veneziane che arrivano sui nostri schermi, Segnali dal futuro con Nicolas Cage, che tra l'altro è protagonista nel frattempo proprio in Laguna, e poi Ricatto d'amore con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, un film sicuramente più intimista ed autore come La custode di mia sorella di Nick Cassavetes, e poi dicevamo con Boris Sollazzo da Venezia tutte le novità che dalla Laguna arrivano già nelle nostre sale. Sono tre film italiani, tra l'altro due di questi sono documentari: Videocracy, L'amore e basta, e Le ombre rosse di Cito Maselli. E poi un collegamento conclusivo per parlare invece del colore e di tutto quello che ruota intorno al Festival di Venezia. Insomma, puntata ricca, per cui cominciamo subito con una vecchia tradizione della Rosa Purpura: entrare nel clima della sala cinematografica con il nostro audio sommario. So che sembra strano, ma ho abbinato questi numeri alla data di ogni disastro degli ultimi 50 anni, in sequenza perfetta. Terremoti, incendi, tsunami. Il prossimo numero della sequenza prevede che da qualche parte del pianeta 81 persone moriranno in qualche tragedia. Nello spaventoso incidente hanno perso la vita 81 persone. Tu perché sei qui? I cocktail gratis. Giusto, l'happy hour. Mi chiamo Taylor. Leucemia mieloide. Kate, leucemia promielocitica. Una rarità. Da collezione. Forse un po' abbondante in alcuni punti. Io avevo più tette da giovane, qui è come la caccia al tesoro. Le ho trovate. Sì, confermo. Ma vi rendete conto del vuoto che stiamo vivendo? Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che la cultura è conoscenza, la conoscenza è coscienza. Quello che voi state facendo qui è critica, crescita, consapevolezza. Il desiderio più grande era incontrare una persona e stare con quella persona. Una persona a cui so di poter affidare la mia vita. So, me, I'm gonna be the Robin Hood of the people. Take out from the rich guy, but they don't give it to the people, they give it to me. And this is modern form of Robin Hood. E cominciamo parlando di Segnali dal futuro. Come dicevamo, protagonista Nicolas Cage in un film del filone catastrofista, visto che il 2012 si avvicina e molti sono quelli che si fanno suggestionare dalle profezie catastrofiche di quell'anno. Ecco che il cinema, come sempre, come una grande spugna, assorbe queste tendenze internazionali e le rilascia dentro dei film. Segnali dal futuro è proprio uno di questi. Voglio che ognuno di voi mi faccia un disegno di come pensa che sarà il futuro. Poi metteremo il disegno nella capsula del tempo e fra 50 anni qualcuno l'aprirà e vedrà che cosa avete disegnato. L'azione si svolge nel nostro 2009, sono passati 50 anni e all'apertura della capsula del tempo, che era stata sigillata e sepolta, una nuova generazione di studenti è invitata a esaminare i disegni. Al piccolo Caleb Miles non resta che chiedere aiuto a suo padre, il professore di astrofisica Ted Miles, interpretato proprio da Nicolas Cage. Sul suo foglio nessun disegno, solo una serie di inquietanti numeri. Ascoltami bene, so che sembra strano, ma ho abbinato questi numeri alla data di ogni disastro degli ultimi 50 anni, in sequenza perfetta. Terremoti, incendi, tsunami. Il prossimo numero della sequenza prevede che da qualche parte del pianeta 81 persone moriranno in qualche tragedia. Il codice sembra indicare altri disastri nel prossimo futuro, ma come sempre accade in questi casi, le autorità non credono alla storia raccontata da Miles e l'uomo cercherà da solo di opporsi al destino. Scenda dal treno. Perché? Che succede? Scenda, porti via il suo bambino. Ehi, qual è il problema? Prossima fermata, Spring. Tutti indietro! Tutti indietro! In cerca di aiuto, Ted Miles si metterà in contatto con Diana Whelan, interpretata da Rose Byrne, ed Abby, rispettivamente figlia e nipote dell'autrice del messaggio cifrato, quello di 50 anni prima, per scoprire che una più inquietante catastrofe è in agguato. I numeri sono un avvertimento. Che succede quando la sequenza termina? Questa è in sintesi la storia di Segnali dal futuro, un film che negli Stati Uniti non ha riscosso il successo sperato dal regista Alex Proyas, pur in una stagione estiva americana che ha segnato il record storico degli incassi in estate, appunto, negli Stati Uniti, dove la stagione estiva è la più importante dell'anno praticamente. Un record di 4,17 miliardi di dollari incassati, tra l'altro aggiornato al 31 agosto. E quindi c'è ancora tempo, perché la stagione estiva in America viene conteggiata fino a settembre inoltrato. Insomma, si valuta che ci sarà un record superiore del 3% rispetto a quello precedente, che apparteneva all'estate del 2007. E protagonisti di questo exploit cinematografico estivo in America, film come Transformers 2, come Harry Potter, come Up della Disney. Maggiore sorpresa è stata di Hangover, ovvero Una notte da leoni, come è stato ribattezzato in Italia, la commedia dell'anno per quanto riguarda e l'ilarità che suscita e anche gli incassi che porta a casa un po' in tutto il mondo. Si è comportata bene anche la commedia romantica della Disney con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, Ricatto d'amore, di cui parleremo fra poco nella seconda parte della Rosa Purpurea. A proposito di incassi, vediamo quello che è successo in Italia, però, perché prevedibilmente l'arrivo nelle nostre sale dell'Era Glaciale 3 ha scongelato il botteghino, che era abbastanza sfittico ormai da diverse settimane. Un record straordinario, il record assoluto nella storia del cinema italiano per un film d'animazione nei primi tre giorni di programmazione: 6 milioni e 839 mila euro di incasso, quasi 7 milioni di euro in soli tre giorni di programmazione per l'Era Glaciale. Dicevamo, maggior incasso di sempre per quanto riguarda un film d'animazione nel primo weekend, terzo incasso della storia in assoluto dopo Il Codice da Vinci e Il Pinocchio di Benigni. Una classifica che dopo la prima posizione ovviamente langue, un secondo posto per Il Messaggero, il terzo per Sex Movie in 4D, new entry al quarto posto, Cherie con Michelle Pfeiffer, però con soli 163 mila euro incassati, circa 40 volte in meno di quello che ha combinato L'Era Glaciale. Settimo posto per un'altra new entry come Smile, ottavo per Fa la cosa sbagliata. In questa settimana Segnali dal futuro e Ricatto d'amore, appunto, potrebbero dare nuova linfa alle classifiche, anche se nessuno sembra in grado di battere per il momento Sid e compagni nell'Era Glaciale 3. La Rosa Purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea per parlare di una commedia, un altro dei film di grande potenziale al botteghino di questo fine settimana. Si intitola Ricatto d'amore e unisce una coppia davvero esplosiva in questo film, quella formata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Oh no, no, no, no! Per un pelo. Oh, ma insomma! Buongiorno, signorina Tate. Mi serve in ufficio nel weekend. Ti crea problemi? No, è il compleanno di mia donna. Compie 90 anni e sarei tornata a casa, ma fa niente, cancello tutto. Hai chiamato casa? Sì. Hanno detto licenziati? Come ogni giorno. Cominciano esattamente così le giornate tutte uguali di Andrew, redattore in una casa editrice newyorkese. La sveglia, quasi sempre in ritardo, il traffico di New York impazzito, il collega che ti versa addosso il caffè appena entri in redazione e poi il capo tiranno eppure in gonnella. È Margaret, arcigna caporedattrice di cui Andrew è praticamente una sorta di schiavo in tutti i sensi durante la giornata. Un giorno però si presenta un problema. Margaret è canadese e non tutti gli immigrati vengono dal sud. Ufficio di Margaret Hay. Non vorrei darmi un altro aumento? Margaret, non ti hanno rinnovato il visto, sarai rimpatriata. Rimpatriata? Non sono mica un'immigrata aliena. Io vengo dal Canada. Se ti rimpatriano, non puoi lavorare per una società americana. Se ci fosse un modo per poter risolvere la cosa. Scusate il disturbo. Capisco la situazione, ma c'è una cosa che dovreste sapere. Noi due stiamo per sposarci. Chi è che si sposa? Noi due, tu e io ci sposiamo, sì. Noi due... ci sposiamo. Noi due sì. Ci sposiamo. Non si può nascondere un amore come il nostro. No. Allora, Andiamo bene? Ebbene, Andrew, come avete capito, è entrato in quell'ufficio, nell'ufficio del direttore, nel momento sbagliato, in tempo per subire l'ennesima angheria di Margaret. Del resto, il suo destino è unito a doppio filo a quello della capa. Se Margaret va, addio lavoro, sogni di gloria, una vita nell'editoria, magari anche da scrittore. E se Margaret resta, invece, tutto questo rimane realizzabile. E allora, che farsa sia, anche se l'ufficio immigrazione si insospettisce. Fate i dovuti passi e tutto sarà dimenticato. Io non ti sposerò mai! Se non mi sposi, ti ritroverai in mezzo a una strada. E la famiglia è al corrente del vostro amore segreto? Andiamo a casa sua nel weekend. Ah, e dov'è? In Alaska. Alaska, ah! Andrew ha posto una condizione alla messa in scena che serve tanto a Margaret, quella di andare con lui in Alaska a passare il weekend, cui Andrew teneva tanto per celebrare il compleanno dell'amata nonna. Sarà un fine settimana di finzioni, ma anche di scoperte. Dov'è la stanza di Andrew? Dormirà qui con te. Dormiamo sempre accucciolati, vero? Siamo grandi accucciolatori. Colazione per i pecoroni. Mio Dio, cos'è stato? Mi dispiace. Che cos'era quella? È il mattino. Come fai a stare vicino a qualcuno che ti rende la vita impossibile? Amore. Tesoro. È una commedia garbata, questo ricatto d'amore, prodotto dalla Touchstone, sempre famiglia Disney. Una commedia in puro stile Screwball, quella commedia brillante americana anni 30-40, nella quale c'era la guerra tra i sessi, ma anche spesso la guerra tra provenienze sociali di ceto diverso, come in questo caso. Insomma, c'era anche una differenza gerarchica. Ed è proprio così in questo caso. Però è molto brava la regista Ann Fletcher, ex ballerina tra l'altro, che aveva esordito dietro una macchina da presa con Step Up, non a caso un film sul ballo, e poi aveva firmato un'altra commedia, 27 volte in bianco. Ebbene, dicevo, molto brava Ann Fletcher a depurare il film di tutta una serie di ridondanze, di orpelli che di solito rischiano un po' di affogare il clima di questo tipo di commedia. Insomma, è un film ricatto d'amore che, nonostante la sua linearità, vede i silenzi e gli sguardi contare di più delle scene di gruppo. Ce ne sono per esempio davvero poche, ci sono molti momenti di intensità, appunto di assenza di dialoghi in questo film. Insomma, Ann Fletcher sembra non spaventarsi dei vuoti, il che è sempre un valore di questi tempi al cinema. Interessante anche la metamorfosi di Margaret, dalla austera caporedattrice newyorkese, sempre vestita di tagliorini strettissimi. Tra l'altro, tra poco sentiremo Sandra Bullock raccontarci proprio questo aspetto della lavorazione del film. Dicevo, una Margaret che si scioglie man mano che entra a contatto anche con il paesaggio straordinario dell'Alaska, che, piccolo trucco, è tra l'altro ricostruito in Massachusetts. Nel film le location sono proprio, al di là di quelle newyorkesi in esterna, sono proprio ambientate nel Massachusetts, dove lo staff tecnico del film ha ricostruito un Alaska in maniera praticamente impeccabile. Insomma, c'è una simbiosi proprio fra lo stato d'animo del personaggio di Margaret, la sua trasformazione, e questa trasformazione del paesaggio che le sta intorno. Dicevamo quindi, tempi comici perfetti, in questo la commedia è assolutamente rigorosa come sceneggiatura, le entrate, le uscite, la durata delle scene è assolutamente solida, niente di rivoluzionario se vogliamo, ma sicuramente una commedia classica e molto gradevole. Andiamo a sentire i protagonisti, dicevamo, una Sandra Bullock in grande forma, sempre più capace di svariare dall'action movie al film sentimentale, alla commedia. E poi ricordiamo, Sandra Bullock ha anche una grande attività di produttrice, quindi insomma donna in carriera a Hollywood, ma anche attrice che ha saputo lavorare molto su di sé. Mi ricorda Sandra Bullock come parabola professionale un po' quella di Madonna nella musica, cioè una persona che deve molto, moltissimo di quello che ha raggiunto al lavoro che ha effettuato su se stessa, e questo sicuramente va a suo merito. Allora andiamo ad ascoltarla, Sandra Bullock, che così definisce questo film. The Proposal is... Proposal, ricatto d'amore, è una straordinaria commedia sulla vita e cosa pensiamo che sia, e sull'amore, cosa crediamo e vogliamo che sia, e tutto ciò che invece non dovrebbe essere. E a proposito proprio dei tailleur succinti che Sandra Bullock doveva indossare nella prima parte del film, quella che si svolge appunto a New York all'interno della casa editrice, hanno provocato non pochi problemi in alcune scene. Sentiamo. Quando ero in ginocchio e ho dovuto rialzarmi dopo che lui mi ha lasciata? Sì, ho letteralmente pensato, ma come farò? Mi sono detta, continua a girare e troverai il modo di tirare tirarti su. Il lui di turno è Ryan Reynolds, uno ormai degli attori più importanti della Hollywood di questa generazione, inserito nella classifica degli uomini più sexy del mondo dalla rivista People. Ricordiamo alcuni suoi film, ha recitato recentemente in X-Men Le origini nei panni di Deadpool, ma fu anche al fianco di Julia Roberts nel film Un segreto tra di noi. Ryan Reynolds racconta della grande alchimia raggiunta sul set con Sandra Bullock. Abbiamo instaurato una divertente alchimia e ci siamo presi in giro a vicenda. Mi ricordo di aver pensato che sarebbe stato bello se avessimo fatto una commedia insieme. Oh mio Dio! Sei tutta bagnata! E quella che avete sentito è la famosa scena di nudo. Ecco, niente di erotico ovviamente in questa commedia, però c'è una scena molto divertente nella quale Ryan Reynolds e Sandra Bullock escono da due provenienze diverse, entrano nella stessa stanza, quella che condividono in maniera un po' clandestina nella casa dell'Alaska dei genitori di Andrew. Ebbene, si trovano tutti e due nudi improvvisamente uno di fronte all'altro e finiscono uno sopra l'altra. È una scena ovviamente che ha creato un certo imbarazzo agli attori e anche alla crew che stava girando sul set. Sentiamo come la ricostruiscono prima Sandra Bullock e poi Ryan Reynolds. Non doveva essere solo divertente. Abbiamo dovuto coprirci qua e là, sfortunatamente, per non scioccare la troupe che stava guardando cose che nessuno dovrebbe guardare. La troupe alla fine della giornata era nauseata. Semplicemente non ne poteva più di vederci. Penso sia stata girata quando eravamo già in là con la lavorazione del film. Abbiamo provato perché sapevamo che sarebbe stato il pezzo forte del film. Sarebbe stata una scena straordinaria. Non solo perché eravamo nudi, ma perché ci sono due persone nude e stanno girando una scena d'azione. È stato davvero imbarazzante, lo posso assicurare. Mio Dio, se prima del film io e Sandra non ci conoscevamo abbastanza bene, ora certamente sì. E passiamo a un'altra nuova proposta sugli schermi italiani, fra quelle che non arrivano da Venezia, di quelle ci occuperemo fra un attimo nel primo dei nostri collegamenti dal Lido con Boris Sollazzo. Dicevamo, torna sugli schermi italiani Nick Cassavetes con un film che ragiona sul tema del dolore e soprattutto nell'età giovanile. Si intitola La custode di mia sorella, lo ha visto per noi Barbara Righini. Mia sorella ha la leucemia. Vogliono obbligarmi a donarle degli organi. Dovresti donarle un rene? Ho un'insufficienza renale da mesi ormai. Nessuno può obbligarti a donarlo se tu non vuoi, Anna. Loro pensano di sì. Non ho ancora 18 anni, per legge sono i miei tutori. Non lo possono fare. È quello che voglio che gli spieghi, perché subisco questo da tutta la vita. Io nemmeno esisterei se Kate non fosse malata. Anna e Kate, 11 e 14 anni, sorelle molto affiatate, ma che rischiano di allontanarsi prima del tempo. Kate è malata praticamente dalla nascita e i genitori, nel tentativo di darle una possibilità in più, decidono di mettere al mondo un'altra bambina. In modo molto crudo, Anna si definisce una creatura concepita per fornire pezzi di ricambio. Nonostante l'amore per Kate, dopo 11 anni di interventi, Anna vuole che i genitori ascoltino anche i suoi desideri e che il suo corpo sia rispettato. Si rivolge quindi ad un avvocato. La bimba sa che la sorella senza il suo rene non potrà sopravvivere, ma decide di andare avanti comunque. Nick Cassavetes, a 7 anni da John Q, torna a parlare di come la malattia sconvolga gli equilibri interni a una famiglia. Il film riflette sul sottile limite che separa la cura dall'accanimento terapeutico. Al centro di tutto c'è infatti Sara, interpretata da una sorprendente Cameron Diaz, che dimostra di essere brava anche in un ruolo drammatico. La mamma di Kate e Anna non vuole arrendersi. La ucciderai così, sei un incosciente! Se la porti al mare la ucciderai! No, aspetta, ti prego, si può. Per 14 anni ti ho lasciato fare. No, negli ultimi 14 anni ho pensato a salvare. Oggi però la sua è diverso, vita. Non comandi tu, comanda Kate. Vuole andare al mare e io ce la porto. Se vieni Kate, con noi, così no, lei anzi, morirà. È meglio che vieni, perché se non lo fai divorzio, va bene? Non divorzi, grande, bene, andata, forza in macchina. Il regista mostra tutti i punti di vista e si focalizza su quello di Kate, consapevole con la sua malattia di avere sconvolto la vita degli altri e allo stesso tempo inevitabilmente disperata per quello che le è successo e per la vita che le è stata negata. Mi chiamo Taylor, leucemia mieloide. Kate, leucemia promielocitica. Una rarità. Da collezione. E cosa fai quando non sei qui in ospedale? Niente. Un giorno possiamo uscire insieme se vuoi. Sì. Mi lasci il tuo numero? La vita e la morte, l'opportunità o meno di intervenire con i progressi della scienza su ciò che Madre Natura aveva stabilito, sono temi attuali e importanti quelli toccati, e Cassavetes lo fa con la necessaria delicatezza, riuscendo a commuovere senza calcare troppo la mano nei momenti più tragici. Bravi tutti gli interpreti. Abigail Breslin, dopo Little Miss Sunshine, si conferma una promessa. La rosa purpurea. Terza parte della Rosa Purpure, è giunto il momento di parlare della Mostra del Cinema di Venezia. Lo facciamo dividendo in due parti tematiche il nostro intervento. La prima parlando di cinema, di film, di quello che di nuovo si è visto in questi primi giorni e che più ha colpito il nostro collega Boris Sollazzo, e nella seconda parte invece di colore, di glamour, di star, di tutto quello che insomma ruota intorno ai film nella Mostra del Cinema di Venezia. Vado subito a salutare quindi in collegamento dal Lido il nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ciao Franco. Allora, tutto bene? Procede bene? Tanto caldo, qualche disagio per il palazzo in costruzione, ma tutto procede bene, un buon inizio festival. Ecco, allora, dicevamo, con te vogliamo parlare di cinema, nel senso vogliamo parlare proprio dei film, di quello che in questi primissimi giorni, ovviamente ancora un bilancio del tutto parziale, anzi non è nemmeno un bilancio, però insomma di tutto quello che si è mosso un po' a Venezia in queste prime giornate. Si è detto un festival molto italiano, peraltro i tre film di cui parleremo fra poco che arrivano nei nostri cinema sono tre film italiani, il film che ha aperto il festival è un film italiano. Ecco, c'è tanta Italia o troppa secondo te? A dir la verità forse troppa, nel senso che Controcampo Italiano è chiaramente un tentativo di togliere la terra sotto i piedi ai festival rivali, secondo me a Roma, ma di fatto poi penalizza molto di più Torino, e questo fa sì che insomma probabilmente c'è un depauperamento sia di Venezia, che non ha film eccezionali, sia di altri festival minori. Però c'è anche tanta buona Italia, va detto. Ecco, ricordiamo che Controcampo Italiano è una sezione inventata quest'anno sostanzialmente da Marco Müller, con sette film un po' fuori da quello che è il mainstream cinematografico, però come dici tu giustamente quello è poi l'oggetto e la natura sociale addirittura di un festival, per esempio come Torino, che è ormai imminente, più che Roma, che magari ha delle mire un pochino più universali ed ecumeniche. Però comunque insomma il cinema italiano evidentemente non ha ancora imparato a non farsi la guerra e a cercare di avere ognuno un proprio specifico. Ma dicevamo, si è cominciato con Tornatore, il film lo vedremo nelle sale cinematografiche italiane, però mi sembra che ci sia stata una certa spaccatura tra un pubblico tutto sommato positivo e una critica che invece ha nicchiato un po'. Il problema è sempre il solito, Peppuccio Tornatore secondo me all'interno di un grandissimo equivoco provocato anche dall'Oscar, è un narratore nazional popolare, in quanto tale molto più amato dal pubblico che dalla critica, ha ambizioni estetiche cinematografiche molto forti. Questo Baia secondo me non è la cosa migliore che ha fatto, è forse troppo autobiografico, troppo autoreferenziale, e questo lo porta in qualche modo a esagerare. E soprattutto, Boris, viene fuori questo film grande, grande in termini produttivi, proprio un vero e proprio colossal, dopo invece un film asciutto, rigoroso, che ci aveva regalato un Tornatore diverso e molto apprezzabile come La Sconosciuta. E quella è la doppia anima di Tornatore, una pura formalità La Sconosciuta da una parte, Nuovo Cinema Paradiso e appunto anche Baria, diciamolo, perché questo è comunque il film della vita di Tornatore, in tutti i sensi, quindi è un film importantissimo, è il primo vero colossal da anni in Italia, è un film che comunque avrà una sua importanza molto forte, però insomma è Tornatore secondo me appunto vive l'idiosincrasia che dicevamo prima tra critica e pubblico anche nella sua arte, e questo un po' lo penalizza nonostante rimanga comunque un grandissimo regista. Sono d'accordo con te che amo di più il Tornatore della Sconosciuta che quello di Baria. Senti Boris, fra i film diciamo internazionali, The Road mi viene in mente, Il Cattivo Tenente nella versione Werner Herzog, ecco, è circolato già un po' di cinema che invece ha dato la sensazione di o vecchi autori alle prese con imprese interessanti, perché è sempre bello vedere un autore rigoroso che è stato uno dei, come dire, dei pilastri del cinema tedesco, del Neue Cinema, alle prese con un plot che abbiamo già visto portato sullo schermo da Abel Ferrara e Harvey Keitel, no? Sembra un'impresa impossibile, invece mi sembra che abbia funzionato molto, ma anche altre realtà, dicevo prima per esempio quella di The Road. Insomma c'è un cinema internazionale che cerca di non essere, diciamo così, simile a se stesso, di spaccare un po' il concetto di mainstream. È quello che non è riuscito agli italiani, sai Franco. Qui è venuto un cinema indipendente, o in produzione o intellettualmente. Quindi arriva The Road, che è un film post-apocalittico in cui non ci sono effetti speciali, ma effetti speciali. C'è Herzog che rifà il cattivo tenente di Ferrara, ma lo rifà per modo di dire, prende la struttura narrativa, poi lo cambia completamente, ne fa quasi, se vogliamo, una parodia molto gustosa con il primo bel film di Nicolas Cage da 15 anni a questa parte, da Via da Las Vegas a questa parte. E c'è Todd Solondz, che è forse la cosa più bella di tutto il festival che abbiamo visto fino adesso, il suo Life During Wartime è un insieme di Chekhov, Lee Masters, di America profonda. L'America si sta difendendo molto bene, devo dire. I grandi nomi degli scorsi anni ci avevano un po' deluso, e invece, tra virgolette, i nomi indipendenti, i nomi piccoli, stanno facendo molto, proprio perché, come dici tu, cercano la diversità, cercano uno sguardo obliquo che forse a noi manca ultimamente. Senti, nelle sale italiane invece, proprio in questo fine settimana, arrivano, dicevamo, tre film italiani proprio reduci da Venezia. Io vorrei aprire con quello che ha da parecchi giorni ormai monopolizzato l'attenzione dei media, anche per via di una sciagurata decisione della Rai di non trasmettere il trailer nei servizi di Annika Flash, insomma, dove noi vediamo di solito a notte fonda i trailer, i cosiddetti prossimamente. Ecco, questo film Videocracy è stato censurato, fra virgolette, da Mediaset, e possiamo anche capirlo sotto un certo profilo, anche se magari invece no, ma sicuramente dalla Rai, e qui non lo capiamo per niente, perché è un film che parla dell'Italia di Berlusconi. Badate bene, tra l'altro, chi ha visto il film e chi ha visto anche il trailer, non è un film che parla di Berlusconi o contro Berlusconi, racconta un'Italia degli ultimi 20 anni, vista tra l'altro con gli occhi di un regista italiano all'estero come Eric Gandini. Allora noi andiamo ad ascoltare la clip, un breve passaggio del trailer del film, e poi voglio sentire il commento di Boris su Videocracy. Senza la televisione non potresti far niente. La televisione è una scatola, ed è una scatola magica che c'è in tutte le famiglie. La accendi e da casa ti vedono e diventi popolare. Della chiappa, perfetto, ok. Diventare popolare diventa chiunque. Basta apparire. Videocracy è un film che secondo me potrebbe cambiare le teste e anche forse le sorti del piccolo schermo. È un gran film, io lo considero un capolavoro, un film da 10. È come se un extraterrestre, cioè un italiano, fosse andato a vivere su Marte nell'86, perché Svezia è Marte per l'Italia, e poi fosse tornato nel 2009 e avesse trovato l'elemora, Fabrizio Corona, il Silvio Berlusconi, che di fatto lui racconta solo cose estremamente vere, è diventato presidente del Consiglio, ha il monopolio sostanzialmente sulle televisioni, cioè tutto quello che notoriamente sappiamo. Ma il bello di Gandini è che non decide di avere uno stile alla Travaglio, uno stile che vuole attaccare Berlusconi in quanto Berlusconi, che vuole essere un attacco politico, fazioso. Oppure alla Michael Moore, potremmo dire. Alla Michael Moore, ma se vogliamo anche alla Nanni Moretti nel Caimano, anche se non era un documentario. Cioè non c'è una militanza politica dietro questo film. C'è semplicemente lo sguardo di uno che è come un extraterrestre, che però è nato in Italia, conosce l'Italia e capisce quello che sta succedendo. E lo racconta e va a cercare l'amore Fabrizio Corona, perché a lui interessa quello, interessa cosa è diventata l'Italia. Per dirla alla Gabber, lui non va contro Berlusconi, ma va contro il Berlusconi che è in noi, volendo fare la battuta. Sostanzialmente, appunto, racconta come l'Italia possa aver fatto diventare un Che Guevara mediatico, come racconta lui, un uomo come Fabrizio Corona. Sembra un documentario invece, ma in realtà non lo è, il film di Citto Maselli, un regista sempre molto generoso nel suo approccio cinematografico. Io avevo particolarmente amato il suo film precedente, Civico Zero. Questa volta Citto ci porta dentro un altro sbandamento, quello della sinistra, con il suo film Le Ombre Rosse. Ascoltiamo una clip. Ma vi rendete conto, nel vuoto che stiamo vivendo, cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che la cultura è conoscenza, la conoscenza è coscienza. Quello che voi state facendo qui è critica, crescita, consapevolezza. Citto Maselli racconta per metafora sostanzialmente i salotti radical chic, quello che nessuno ha il coraggio di raccontare. Se vogliamo, sono completamente collegati questi film, è affascinante, perché davvero sembrano essere il seguito l'uno dell'altro. Gandini parla di come l'Italia si è messa in mano a Berlusconi, Ma Sally che cosa fa? Racconta come l'intelligenza progressista, la sinistra in quanto tale, l'abbia consegnata a Berlusconi. E anche qui c'è un atteggiamento laico, nonostante appunto Maselli non abbia mai nascosto la sua formazione comunista, la sua anima comunista, lui si mette a fare autocritica, un'autocritica nobile, e racconta questi intellettuali che dovrebbero parlare al popolo, ma che odiano il popolo e che cercano di fare egemonia culturale, non come Togliatti, ma semplicemente per normalizzare i movimenti radicali. Molto interessante per capire l'Italia, forse andrebbero visti insieme. Ecco Boris, per chiudere sulle nuove proposte che da Venezia arrivano nelle nostre sale, c'è un altro film che tratta un tema di assoluta attualità, come quello delle libertà sessuali, potremmo dire, lo fa in maniera molto interessante e molto garbata. Anche questo è un documentario come Videocracy, il che ci fa pensare che questo genere rinato totalmente, con un'Italia che è in prima linea nella capacità documentaristica di produzione, ebbene, sta anche invadendo le sale. Questo ci fa molto piacere, perché forse le cose migliori degli ultimi anni sono arrivate spesso dai documentari. Chiusa parentesi, allora dicevamo L'amore basta di Stefano Consiglio. Ci sono certi che sono di sesso diverso, che non si amano tanto come certi che sono di sesso uguale. Il desiderio più grande era incontrare una persona e stare con quella persona. Se si vogliono bene, si fa di tutto per quello che si vuole bene. Né che ci fanno male a noi. Secondo me, felicità per noi. Diciamolo, diamo una volta il merito a chi non lo diamo mai. Questi sono due produttori forti, intellettualmente, non finanziariamente, e produttivamente. Chi sono? Occhi Pinti e Barbagallo, la Chired e BB Film. Loro hanno prodotto questo documentario sulle coppie gay in giro per tutta l'Europa, da Berlino a Parigi, a Catania, a Parma, e Stefano Consiglio è andato con questo film di 250.000 euro a cercarsi non l'eccezionalità, non la diversità, ma la normalità. La forza di questo documentario, che ha anche momenti di stanca, va detto appunto che lui racconta questa cosa, racconta la normalità. Tu vedi l'amore tra queste due donne che vogliono dei figli e ti sembra normale, vedi gli uomini che si amano, che vogliono avere una vita insieme, o che pure hanno dei problemi perché sono gelosi, e assolutamente ti rendi conto che è il sentimento che li unisce ad essere uguale per tutti, e non importa chi è il tuo partner sessuale, non importa chi ha la tendenza sessuale. Forse è proprio la cosa più forte di questo film. Perché? Perché nel nostro paese c'è una brutta parola, la tolleranza, che viene usata dai progressisti. Quando uno si tollera vuol dire che ha sopportato, e invece no, siamo tutti uomini, siamo tutti donne. Molto spesso e volentieri amiamo l'eccezionalità dei film, la forza più grande dell'amore basta è la normalità. Grazie a Boris Sollazzo, buon lavoro a Venezia, appuntamento la prossima settimana perché ci devi raccontare tutto il resto qui alla Rosa Purpurea. Grazie a te Franco. La Rosa Purpurea. E rieccoci alla Rosa Purpurea, ancora a parlare della Mostra del Cinema di Venezia in questa parte conclusiva del programma, dopo aver analizzato i film e comunque il tenore cinematografico della kermesse veneziana, parliamo un po' di tutto quello che ruota intorno a questo mondo. Da qualche giorno a raccontare il Festival di Venezia per Radio 24 c'è la voce di Marta Cagnola, che saluto. Ciao Marta. Ciao Franco, eccoci qua dal Palazzo del Cinema, che tu ben conosci, anche se è un po' diverso da quello che tu ricordi. So che c'è un cantiere che si è messo di traverso, insomma. Guarda, tu lo sai benissimo, hai seguito per moltissimi anni il Festival del Cinema. Arrivi il giorno prima e pensi che niente sarà pronto per il giorno dopo, perché è ancora tutto un cantiere. Quest'anno invece il cantiere rimane e rimarrà per altri due anni, perché il nuovo Palazzo del Cinema, del quale ci sono questi plastici e queste piantine che fanno capire che sarà particolarmente avveniristico, sarà pronto nel 2011, e quindi ogni anno sarà diversa la disposizione delle sale che poi vengono piazzate accanto al Palazzo del Cinema. Intanto si entra in maniera diversa e poi c'è una terrazza che prima non c'era, insomma tutto sta cambiando, sta evolvendo, si riesce a lavorare lo stesso e soprattutto si riescono a guardare i film, questo è l'importante. Esatto, si sono anche guadagnate sale più o meno fisse per alcune sezioni che tribolavano un po', no? per avere spazi come la Settimana della Critica o i Venice Days, appunto le giornate degli autori. Invece quest'anno mi sembra di capire che tutti hanno la loro collocazione, no? Tutti hanno la loro collocazione, peraltro da quelle sezioni arrivano spesso le sorprese dei festival. L'anno scorso fu il caso di Pranzo di Ferragosto di Gianni Di Gregorio. Adesso ovviamente la sorpresa la stiamo ancora aspettando, non si può decidere a priori, e però certo è che sono film che meritano di essere visti, e gli anni scorsi erano un po' dispersi, adesso invece chissà dove sono e dove andarli a scovare. Tra l'altro devo dire che pare, almeno guardando appunto i plastici come dicevi tu, ma anche l'anno scorso mi capitò proprio al giorno della posa della prima pietra di vedere un po' i piani di questo nuovo Palazzo del Cinema, pare proprio che valga la pena insomma aspettare questi 3 anni di spostamenti, perché è un'opera colossale davvero, che se andrà poi in porto così come l'abbiamo vista sulla carta regalerà forse un Palazzo del Cinema inimitabile a livello mondiale. Beh, è un po' inevitabile puntare alto, perché come è successo a Torino, dove insomma i progetti sono stati realizzati e tante cose sono state fatte, purtroppo le cose o si fanno per bene o si viene uccisi da altri festival. Gli altri festival stanno diventando sempre più forti, non solo quelli tradizionali come Berlino, come Cannes, ma abbiamo Toronto, abbiamo tanti festival che diventano forti e Venezia non può restare indietro, ad esempio nel mercato, che qua non aveva una vera e propria collocazione, bisogna rafforzare tanti aspetti che hanno bisogno anche proprio di loro spazi, e col nuovo cinema sarà possibile. Senti Marta, si è cominciato con una nottata, una passerella tutta italiana, no? Il festival si è aperto con un regista da Oscar come Tornatore, con una madrina come Maria Grazia Cucinotta, però all'insegna dell'Italian Style, potremmo dire. Questo maschera secondo te un'annata un po', diciamo così, zoppa sotto il profilo delle star hollywoodiane, o insomma, come dire, il cinema è fatto anche di cicli e quest'anno le cose vanno così? Ma insomma, da un certo punto di vista dobbiamo comunque dirci contenti, perché erano 20 anni che un film italiano non apriva a Venezia, e quindi insomma facciamo anche un po' gli sciovinisti, ci va bene così, un film italiano che ha aperto Venezia. Sicuramente di star ce ne sono meno rispetto a quello che abbiamo visto in anni passati, anche se qualcuna è già arrivata. Tanti i film italiani, ce ne sono 4 in concorso, insomma diciamo che hanno puntato sul Made in Italy per valorizzare quello che c'è. In fin dei conti non è una brutta idea, i momenti di crisi si fanno comunque sentire, pare che poi peraltro l'anno prossimo, secondo le prime stime, la quota dei film italiani sul totale dei biglietti staccati sia destinata ancora a calare, quindi forse bisogna fare qualcosa per questo cinema italiano. Qualche defezione comunque c'è stata, Charlize Theron, Charlotte Gainsbourg, ricordiamo, fra gli altri, però anche qualche presenza. Mi sembra che abbia particolarmente colpito soprattutto il pubblico delle giovanissime un attore come Viggo Mortensen. Dicono che molte vorrebbero un padre come loro, lì in Laguna, come lui nel film. È davvero così? Oddio, mi guarda, mi fai sentire vecchia, perché hai detto un padre e io mi aspettavo che mi dicessi sono innamorata di lui. No, allora effettivamente nel film The Road lui ha il ruolo di un padre straordinario, assolutamente straordinario, e quindi effettivamente potrebbe essere il padre ideale, il padre dei sogni. Devo dire che io ho ricevuto commenti dal pubblico femminile che non andavano decisamente in quella direzione. Per ora è forse la star più applaudita insieme a Nicolas Cage, che è sempre una certezza, Nicolas Cage, con l'attrice invece che ha sicuramente fatto battere il cuore degli ometti, che è la straordinaria Eva Mendes, lo posso dire con obiettività, davvero bellissima. Senti, per chiudere la parentesi, diciamo così, un po' pop, c'è attesa su questa seconda settimana per George Clooney, che si dice arriverà senza dubbi. Il dubbio sta sul fatto che arrivi o no con Elisabetta Canalis. Certo che, voglio dire, in un festival così importante, il più antico del mondo e tutto, insomma, l'attenzione mediatica di un certo tipo di stampa, il colore, il famoso colore veneziano, è attaccata a una showgirl della televisione. Eh beh, insomma, Videocracy, come il titolo del documentario di Eric Gandini, effettivamente. Però conceviamolo, effettivamente quella è stata la love story più dibattuta dell'estate. Bisogna capire se è vera, se non è vera, se lei ci sarà. C'è un po' di curiosità che va al di là della televisione, anche per certe affermazioni che ha fatto l'amico di George Clooney, Brad Pitt. Insomma, stiamo a vedere, siamo veramente tutti curiosissimi di questa carpet. Senti Marta, fra i tuoi incontri di questa prima parte del festival c'è stato quello con un maestro assoluto del cinema italiano, che però i film li fa, fra virgolette, sotto il profilo musicale. Quanto diverso sarebbe stato tanto cinema italiano e internazionale senza le note di Ennio Morricone, che ha prestato anche questa volta la sua arte al Colossal di Tornatore Baria. Tu lo hai incontrato, ecco, raccontaci un po' questo incontro e poi sentiamo anche una dichiarazione di Morricone. Beh, incontrare Ennio Morricone è sempre una grandissima emozione, perché è veramente un pezzo di storia del cinema, un grandissimo capitolo di storia del cinema, in un momento di una genuinità, di una timidezza, di una gentilezza uniche, accompagnato dalla moglie, un uomo semplicissimo che ha raccontato di essersi innamorato del film di Tornatore dopo aver visto le prime immagini, e se ne è talmente innamorato che quando ne ha parlato con i giornalisti si è commosso. Sentiamo appunto cosa ha raccontato qualche giorno fa. Tutto, il film è troppo complesso per parlarne in poche parole, veramente ha delle varie corde dentro di sé. Io ho lavorato verso tutte le strade cercando di fare il meglio possibile. Io ho visto il film la primissima volta, quando era stato completato il montaggio provvisorio, e mi ha fatto molta, molta impressione la corsa del ragazzino che va a prendere le sigarette. E il finale, dove si ripete? Questa corsa col padre e il figlio. Lì ho pianto. Un altro incontro che mi ha abbastanza colpito, Marta, è stato quello con Pappi Corsicato, perché è un regista, come sempre, vulcanico, di grandissimo estro, ecco, e che ha messo però questa volta a servizio di un bene da tutelare, come quello di un pezzo della infanzia, penso, di molti di noi e degli ascoltatori non più giovanissimi, ovvero il Carosello. Cosa ci fa Corsicato con il Carosello? Intanto qui mi parli di un grande amore, che è quello per Carosello, anche se dovrei fingere di non averlo visto, di essere troppo giovane, invece ahimè ce l'ho fatta. Carosello ha avuto un altro grande maestro, abbiamo parlato di Morricone, un grandissimo maestro di Carosello. Testa, lui ha inventato alcuni dei personaggi che hanno popolato la fantasia di generazioni di bambini: l'ippopotamo Pippo, Carmencita e Cavaliero. Poi ha inventato il pianeta Papalla, ma ci sono anche dei simboli che sono rimasti nel nostro immaginario. La palla rossa è un'altra pallina rossa sotto, chissà cosa ci fa subito pensare se non a un aperitivo famosissimo, oppure l'omino che si massaggia la pancia per digerire. Insomma, li ha inventati tutti Armando Testa. Cosa è successo? La famiglia Testa ha deciso di realizzare un documentario sulla figura del fondatore dell'agenzia, ha contattato Pappi Corsicato, il quale, lo sappiamo, è assolutamente pop, adora questo tipo di atmosfere, ha accettato con entusiasmo. Sentiamo cosa ne è venuto fuori. Armando Testa, povero ma moderno, eccolo qua. Io penso per cui della mia generazione, appunto, che sono nata all'inizio degli anni 60, le pubblicità realizzate da Armando Testa sono dei capisaldo, cioè per me rivedere poi in questo periodo quelle che erano appunto delle pubblicità di quegli anni, quando c'era appunto il Carosello, e dopo il Carosello si andava a dormire, il Carosello era proprio come, come dire, la benedizione finale della giornata, era qualcosa molto ambita, molto da si aspettava con molta ansia di vedere questi Carosello, che appunto erano molto dispiritosi, fantasiosi, quindi c'era anche, come dire, una volontà di poter rivedere quella roba lì, di vedere quel materiale lì, veramente fare un tuffo nel passato. Io ho visto delle cose che avevo un po' dimenticato, e quindi anche rivederle è stato anche emozionante, quindi è stato non solo interessante lavorare sulle sue interviste, su quello che lui faceva, sul suo lavoro, fermo restando che però ovviamente quando si ha a che fare, quando si deve raccontare un artista oppure qualcuno così geniale e creativo come lui, c'è poi da qualche parte un po' di pudore, perché magari pensi che tu possa mal raccontare la persona, o magari sovrapponi la tua idea, no, o la tua creatività, o il tuo modo di raccontare, magari si fa sovrapporre. Io ho cercato di interagire molto col suo linguaggio e credo che sia venuta fuori una cosa abbastanza piacevole, credo. Grazie Marta Cagnola, buon proseguimento alla Mostra del Cinema di Venezia e appuntamento alla prossima settimana per raccontarci ancora un po' di questi dietro le quinte del festival qui alla Rosa Purpurea. A presto. E si chiude qui la puntata della Rosa Purpurea di questo fine settimana, la prima delle due puntate dedicate in gran parte alla Mostra del Cinema di Venezia. Ci risentiremo la prossima settimana con una puntata del sabato e una diversa in parte della domenica, perché ci saranno di mezzo i Leoni e chiaramente dobbiamo darvi conto di come finirà questa 66esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Grazie per averci seguito, appuntamento fra 7 giorni, un saluto da Franco D'Assisi.